24 mattino. Questa canzone di George Michael restò un enigma per molto tempo, poi si scoprì che era bellissima, struggente, dedicata a un amore omosessuale. Ebbene, oggi la notizia sul Corriere della Sera: il divorzio della prima coppia arcobaleno. Manlio e Claudio, tre figli, simbolo di unioni civili, si lasciano. È finita, annuncio in rete. Io e Maglio ci siamo separati dopo un lento ma inesorabile cambiamento del nostro rapporto che non siamo riusciti a fermare. Abbiamo deciso di continuare da amici e da co-genitori, perché se io e lui non siamo più una coppia, noi cinque restiamo una famiglia. Bello questo racconto, Elena Tebbano, una paginata dovevate assolutamente esserne a conoscenza. È un bel racconto intenso, scritto molto bene, perché Rossi Marcelli, il papà di questa famiglia, è anche l'autore di una famosissima rubrica su Internazionale di libri editi da Mondadori che raccontano molto bene la realtà della famiglia Arcobaleno. Due segnalazioni importantissime anche per discutere. Alice, lo scandalo della mail nazi. Si parla della Weigel, Alice Weidel, leader dell'alleanza, diciamo, populista o popolare, come la volete chiamare, che ha preso il 10% in Germania e che è finita nella tempesta per una mail in cui dice che la Merkel è schiava dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Neonazismo! Ma questa notizia fa il paio, sembrano Dio le fa e poi la coppia. L'ho letta da Repubblica, un'intera pagina, la Mastrobuoni, però fa il paio con quella del Corriere della Sera del figlio di Netanyahu. Pensate un po', i figli che cosa sono, che ha pubblicato una vignetta, si dice, antisemita nella sua pagina web, e questo Jair, che dir si voglia, è diventato lo scandalo in Israele. Ti credo, il figlio di un leader conservatore pubblica una vignetta in cui c'è Soros che manipola i poteri forti e i denari come con fattezze, diciamo, da caricatura antisemita. Al telefono con noi Michela Biancofiore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli radioascoltatori di Radio 24. Io e Oscar Giannino, ma il popolo italiano, il mondo, vuole sapere qualcosa di più su questa dieta. Ormai ci sono anche retroscena sulle diete, capisci? E Berlusconi, oggi un pezzo interessante, dice voglio, la prima legge che dovremmo fare è cancellare la Severino, così posso tornare premier, però infuriano in retroscena su come ha perso tutti quei chili. Allora, è stato Chenot ed è merito suo o è stato Lemme? No, allora è sicuramente merito di Chenot. Infatti devo dire che io stessa sono subissata di richieste da parte di colleghi, amici da tutto il mondo, adesso di andare di avere contatto con l'hotel Palace di posso Verano, mettermi in lista d'attesa, sì, pure io. Assolutamente, ma non, penso che ci sarà la lista d'attesa, perché devo dire che un mio amico ha prenotato l'altro giorno da Miami. Ieri mi ha chiamato Miami. Una mia amica da New York, ieri mi ha chiamato una notissima gallerista americana, italo-americana, per venire qui da Chenot a Merano, appunto. Quindi devo dire che l'effetto Berlusconi, ma, come sempre, è esplosivo. Ma allora voglio dire, spero che Chenot abbia pagato Berlusconi e non viceversa. No, credo che Berlusconi abbia pagato anche abbastanza seriamente, insomma, questa settimana di dieta intensa che ha fatto. Detto questo, allora, l'effetto su di lui è incredibile, c'è da dire. Quanti anche chili ha perso veramente? Perché qui in realtà leggenda, allora, foto. Francamente non so quanto pesasse prima, devo dire che adesso è un figurino. Ecco, io ho avuto la fortuna, avendo passato lui quasi tutta l'estate qui, di averlo visto spesso e volentieri. Deperire. Devo dire che è veramente 800 24 0024 per chiamare, 349 238 6666. Ci dica su che cosa si basa, cioè, e quanto si paga in questa clinica. È vero 4.000 euro a settimana più o meno? Ma questo sì, lo non è, beh, certo non è per le tasche anche di tutti, però non è così caro come tutti pensano. Poi bisogna fare ovviamente i trattamenti aggiuntivi, non lo so, francamente io non ci sono mai andata, perché a 20 km da casa mia anche se ne avrei bisogno pure io di mettermi in lista d'attesa, quindi francamente non lo so. So che ha una clientela internazionale pazzesca, di grandissima fiducia, chi ci va ci ritorna tutti gli anni, e devo dire che gli effetti sulle persone si vedono. Poi certo, se uno inizia a mangiare normalmente, poi è chiaro che poi riprende tutti i chili che ha perso. Si mangiano cose molto naturali. In realtà io sono stata ospite a pranzo, a cena due volte lì dal presidente, e devo dire che non ho cose, sì, particolari, ma estremamente squisite. E poi ti alzi da lì che non hai fame, stranamente, insomma, anche se le porzioni non sono abbondantissime, come potete ben immaginare. Ma scusa Luca, posso fare una domanda all'onorevole Biancofiore? Certo. Buongiorno onorevole, sono Gio Violanti, mi scusi, no, ma incuriosito questa cosa qua. Intanto può prenotare anche per me da Chenon? Certo, mandatemi tutti la lista e glielo dico subito. Senta, l'anticipo quant'è? Non lo so, non ho la minima idea, mi dispiace, vi ho detto, io non ci sono mai andata, o meglio, conosco quell'albergo da quando ero piccolina, che ci andava a fare il bagno in piscina, quando non era di questa proprietà e non era un lifestyle hotel, però non ci sono mai stata, quindi non lo so quanto costa. Va bene, allora, grazie. Però la questione politica di cui le parlavo, visto che è un'apertura di giornale, è molto interessante, ma lei la voterebbe l'abolizione della Severino in caso di vittoria, appena entrati nel nuovo Parlamento, se vincesse la destra? Forse in caso di vittoria non è opportuno, ma poi non vedo il nesso, non so chi ha ricostruito questo articolo, perché ero fuori, ero in Austria, quindi non ho ancora visto Repubblica, Repubblica, pagina 12. Casualmente, detto questo, non avendo ancora letto, non posso farvi un commento. Io, Premier, abolendo la Severino. Assolutamente incostituzionale, che ha la retroattività, che chiunque abbia studiato, voglio dire, anche rudimenti di diritto, sa perfettamente che non esiste in diritto, appunto, e quindi dico che questa legge andava modificata prima e concessa a Berlusconi di potersi candidare, essendo quello che rappresenta ancora oggi una fetta importantissima dell'elettorato italiano. Speriamo nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Allora, primo giorno di scuola, io e Violanti abbiamo già fatto outing, raccontando il nostro primo giorno di scuola, i luoghi e i simboli della Marcord. Abbiamo letto un bel pezzo sulla cartella, un ascoltatore ci racconta la sua. Io avevo una cartella rossa di finta pelle, la copertura di pelo di cavallino, in 6 mesi l'ho tosata, perché era orribile probabilmente. Qual è la prima immagine del suo primo giorno di scuola nelle ridenti province del nord italiano? Ma io andavo, ho fatto il primo giorno di scuola, intendo ovviamente, immagino, in prima elementare, l'ho fatto dalle suore Marcelline, di cui oggi peraltro mia sorella dalle è prete. Suore Marcelline. Sì, esatto, dell'istituto delle suore Marcelline, quindi un istituto cattolico, era abbastanza severo, diciamo che ho un ricordo. Hanno fallito con lei nella loro missione, non sono riuscita a tenerla a bada. Ma insomma sì, forse a bada no, però insomma per altri versi dal punto di vista valoriale forse non hanno fallito. Detto questo, devo dire che ho un ricordo un po' austero, ecco, del primo giorno di scuola. Poi io, siccome ero nata a dicembre, pensavo di avere ancora 5 anni, quindi ero abbastanza infastidita, volevo rimanere ancora all'asilo, quindi dicevo, ma io non ho 6 anni, quindi ero abbastanza, è stato un impatto un po' così, un po' negativo il primo giorno di scuola. Poi vabbè, poi tutto è stato superato. Però, poi tutto è andato meglio, però devo dire, sì, cioè, assolutamente sì, devo dire sì, che poi l'iter è stato, sì, ero abbastanza scappata. La sua cartella com'era? Com'era la sua cartella? Voglio dire, ecco. Com'era la sua cartella? Non me la ricordo, mi ricordo una cartella azzurra, guarda caso, sì, mi ricordo una cartella, no, la cartella azzurra, cartella post-litera, di pelle, no, azzurra, casualmente, evidentemente anche quella era un segnale, però ecco, quello me la ricordo, però non mi ricordo se era proprio quella del mio primo giorno di scuola, ma mi ricordo una cartella azzurra che mi piaceva tanto. Allora grazie a Michela Biancofiore, torniamo ovviamente qui nel nostro studio, e quello che ti volevo chiedere, Gio, ma secondo te per noi la scuola è stato, come dire, una cosa diversa, perché non eravamo bombardati dalla televisione, dal web, dai social, e ora è un altro mondo, un altro tempo, i bambini imparano in altri luoghi, in altri modi? Beh, insomma, che le cose sono cambiate, sono passati un po' di mezzo secolo. No, cioè, beh, la scuola rimane però sempre, sai, un luogo in cui magari con modalità diverse, con approcci differenti, però è il luogo primario della formazione intellettuale dei giovani, quindi certo sono cambiate molto le cose. Questa idea di non avere più la cartella, di avere gli iPad, di avere i libri sul cloud, cioè, sono aspetti tecnici. Dimmi Luca. No, tutto a posto. Allora ricordatevi 800 24 00 24 per chiamare su uno degli argomenti che vi appassionano, controversiali di oggi, il 349 238 6666 per lasciare i vostri messaggi. Ci fermiamo ancora una volta e poi entriamo nello spazio con Oscar Giannino, diamo la sveglia al terrificante Parenzo, insomma entriamo nei nostri riti della mattina piena. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. "24 mattino". È arrivata la chiamata, dobbiamo andare a Dunkerque. Stai pronto a poppa? Ma che fai? Lo sai dove andiamo? In guerra, George. Sarò d'aiuto, signore. E dei nostri! Mobilitano le imbarcazioni civili. Civili? Servono i cacciatorpediniere. Dove andiamo? A Dunkerque. Siete marinai della Domenica, non la marina. Dovreste restare a casa! Non possiamo sottrarci, figliolo. Abbiamo un lavoro da fare. Allora, l'ho visto e l'ho trovato bellissimo, Dunkerque. Oggi ne parla il Corriere della Sera con una paginata di Massimo Nava, che addirittura si chiede se la Brexit non abbia la sua origine in questa pagina epica, drammatica e avventurosa di storia della Seconda Guerra Mondiale. Ma io l'ho visto in un modo diverso, l'ho visto con un'emozione, l'ho visto come un film sul senso del dovere, un film che mi ha ricordato di mio nonno che ha combattuto in due guerre, quel senso di salvazione meravigliosa che già avevamo sentito in Schindler's List. Insomma, è un consiglio, è un film bello su cui ragionare e discutere, e bello per discutere stamattina con uno dei grandi personaggi di questo programma, Oscar, il graffione del gattone. Eccoci qua. Benvenuto. L'hai visto, Oscar, tu? Non ancora, ho letto tutto quello che da mesi si scrive. Sono un grande sostenitore del regista, a dire la verità, perché mi piace molto il regista, quindi mi grande aspetto Christopher molto. Nolan, certo. Sì, grande davvero, almeno a mio giudizio, per quello che posso capire e contare, però mi aspetto molto, perché insomma ho letto davvero tutto, quindi non mi stupisce che ti abbia colpito, ecco. Sì, c'è una scena meravigliosa, un Kenneth Branagh sul pontile, le bombe, gli aerei, tutta una trama complicatissima, non ti dico, anche per non rivelarti, ma a un certo punto sembra che non arrivino più navi, che i tedeschi stiano vincendo, e arriva sull'orizzonte, si staglia questa fila enorme di battelli, navi, zattere, navi da diporto, cioè sono i civili che hanno attraversato il mare. E allora l'attendente chiede a Kenneth Branagh: che cosa vede? Che cosa vede il generale? E lui risponde: sto guardando la patria. Noi non ce l'abbiamo una patria così, abbiamo avuto Caporetto, il Piave. Tra l'altro, voglio dire, loro ce l'hanno in una grande, colossale sconfitta, perché quella erano travolti, no? Eppure, sì, come vedi, costruiscono su quello un pezzo del loro mito nazionale. Noi, nella catastrofe, cioè Caporetto, abbiamo dato la colpa ai militari italiani che scappavano e li abbiamo fucilati. Ecco, questa è la differenza. Cioè, per capirci, esatto, no? Ecco, allora non posso rivelarti il finale, ma con la tua intelligenza il finale risponde a questa tua domanda. Lo squillo per svegliare il dormiglione. Niente, Parenzo dorme, ma è una cosa incredibile, guarda, è appena finita gli impegni lavorativi, dorme. È così, così. Alle 8:36, vabbè, teniamolo. Allora, Oscar, tante cose su cui discutere. Qui con me c'è Gio Violanti, giustamente lo ricordiamo, lo abbiamo sequestrato stamattina presto, pensavo che avessero con due minuti, chiuso nello studio. Anche... Piacere, saluto Oscar Giannino, buongiorno Giannino. No, ma soprattutto l'avete informato che i familiari, i compagni e amici ci devono dare riscatto per liberare, altrimenti non esce. Non esce, resterà in palinsesto fino alla zanzara. Senti Oscar, vogliamo cominciare subito da un tema serio stamattina, perché i giornali sono ricche di notizie, ma ti chiedo se secondo te è veramente un condono, come dice qualcuno, oppure no, la rottamazione delle cartelle. Dunque, la notizia è stata data ieri in apertura, era la notizia del Sole 24 Ore di ieri, e la notizia è che il governo è così assetato di nuove entrate e per far quadrare i conti, no, per soddisfare la richiesta così in ascesa dell'interno della maggioranza del PD di nuovi interventi di spesa, che non sanno dove sbattere la testa, e quindi riaprono i termini della rottamazione del condono. Se mi ma chiedi come hai chiesto, arrivare però, Oscar? Ma loro pensano, cioè, che la somma della rottamazione dei ruoli, che in teoria era chiusa, e la riapertura può arrivare a 8 miliardi. Per il momento abbiamo un anticipo certo, le cifre per il momento sarebbero 1,2, verso 1,2, 1,7. Quindi loro la riaprono. Se mi chiedi cosa penso di un paese che fa il duro e l'arcigno e poi regolarmente condona, rottama, riapre i termini, patteggia, eccetera, è la Bresina. È la Bresina, è la mancanza totale di credibilità dello Stato ladro, amministratore del fisco italiano, perché è un l'inflessibile con una faccia e dall'altra un povero con le pezze al culo che vuole solo i soldi e implora: ma sì, l'avete violata la legge, vabbè, non mi avete pagato, e va bene, io non sono stato capace di prendere i soldi, e va bene anche questo, ma mettiamoci d'accordo, dai, pagami qualcosa. Ecco, questa è la vera essenza della credibilità della Repubblica Italiana. Però solo un'obiezione su questo, e è anche una domanda: l'obiezione è che qui non c'è un condono, cioè si paga l'intera sanzione, non si pagano le sanzioni aggiuntive. Mi sembra, rispetto agli orrori che conosciamo, quasi niente come gravità. Ma per carità, rispetto ai condoni veri, giganteschi, sono d'accordo. Del resto non ti dimenticare, noi abbiamo fatto, anche questo governo ha fatto, non lo scudo fiscale di Tremonti, vero, ha fatto l'emersione volontaria dei patrimoni, poi l'ha puntualmente riaperta. Cioè, capisci, è una roba in cui chi volesse chiedere al proprio commercialista: ma mi conviene rispettare le norme come sono? Oppure il commercialista dice: io sono qua per dirti che devi rispettarle, però aspetti, le faccio vedere quante volte negli ultimi anni chi non le ha rispettate si è messo in regola pagando meno. Questa è la realtà di questo ordinamento fiscale, capisci? Una grida manzoniana che fa acqua da tutte le parti. 800 24 0024 se volete intervenire su questo e su altro. Però l'altra grande questione è che la mammella è stata già munta. Eh già. Cioè, se tutti quelli che volevano rottamare lo hanno fatto in un anno di tempo, con quella specie di esodo biblico, ma chi è che oggi si potrebbe aggiungere? Io non riesco a capirlo. Loro, dunque, bisogna vedere come la scrivono, perché naturalmente ieri l'annuncio del Sole 24 Ore era: ma magari riaprirla per chi ha commesso qualche errore formale. Basta. Nella redazione della norma, se hanno bisogno di soldi, e hanno bisogno di soldi, se no non lo farebbero, far passare per errore formale qualche vizio sostanziale, ed ecco che a quel punto il condonuccio inizia a profilarsi, anche se per carità mai ammesso, e come vedi si riapre. Ecco, quindi la risposta è questa, come sempre, come sempre. Tremonti ha un'idea su questo. Allora stavo ascoltando con... Buongiorno Giannino, buongiorno. Allora, devo dire che ha detto delle cose assolutamente giuste, Giannino. E come noi non metteremo le mani nelle tasche degli italiani, è una frase che vorrei riportare. È una cosa vergognosa la rottamazione, dai. È rotta, ma l'ha fatta pure lei, ministro. Ma veramente? Sì, un po' di qualche condonino, sì. Ma io condoni, cioè parla del governo Berlusconi, ma dai, insomma, Telese, lei è sempre così viziato, sappiamo da che parte sta, dai. Allora, Oscar, le polemiche sull'alluvione, è diventato un'alluvione anti 5 Stelle, perché su diversi giornali, ne ho letto qualcuno prima, ma insomma, si mettono insieme la Raggi, Roma, la catastrofe di Roma che ogni volta piove, con qualunque amministrazione, voglio dirlo, va in tilt, e la Caporetto di Livorno. Che cosa ne pensi? Io devo dire che ieri ho a un certo punto istintivamente sorriso solidarizzando quando ho letto un tweet di Chiara Geroni. Chiara Geroni, forse non molti la ricordano, però tra i giornalisti, ecco, giornalista, sì, opinionista, legata al PD ovviamente bersaniano, la quale a un certo punto dice: a proposito del fatto che tutti quelli del PD renziano ritwittavano i messaggi dei 5 Stelle, i Twitter ironici, satirici, graffianti dei 5 Stelle della Raggi ai tempi in cui Roma era sommersa con Marino, no? E a un certo punto Chiara Giannoni se ne esce, però astutissimi i miei amici del PD, che fanno capire che in realtà Roma si allagava esattamente anche con i sindaci del PD, per dire. Ecco, per dire, in questo commento di Chiara Gioloni, un po' antirenziano come sempre, però in realtà coglieva un punto. Il punto, io l'ho scritto oggi sul Messaggero, io mi rifiuto di fare polemiche politiche su questo, non perché sono 5 Stelle, per niente, anzi scrivo nel mio fondo che anche nella giunta Raggi, secondo me, non ha capito all'inizio che Roma eredita un tale quantità di incurie su Tombini, Fogne, Caditoi. Ma se non ne esci con tre lavori, esatto, di manutenzione. Quindi la mia opinione semplicemente è che anche lì non ha capito che questa può diventare alle prime piogge, non alle celle tropicali. Su questo ha ragione Franco Prodi sul Messaggero, che dice: giornalisti, smettiamola per favore di parlare di fenomeni tropicali in Italia. Ecco, leggete, è un meteorologo molto bravo. Però detto tutto questo, io non credo che serva la polemica politica. Quello che mi colpisce è che l'Italia, che è esposta a rischi idrogeologici che non si devono alla natura, si devono integralmente al fattore umano, dove abbiamo costruito, dove non dovevamo, dove abbiamo centrificato. E infatti tu parli di rischi prevedibili, certo, che devono diventare la priorità. Devono diventare la priorità perché ci sono 7-8 milioni, probabilmente più di 10, ma insomma se uno vede le carte, il rischio idrogeologico col maggiore fattore di rischio sono milioni e milioni di italiani. Ogni autunno, da che sono piccolo, facciamo la conta dei morti. Abbiamo avuto un sindaco di Genova che si è beccato 5 anni di carcere per 4 morti nell'inondazione del 2001 a Genova, eppure continuiamo a non capirla questa faccenda qua. E non allora capirla. Ci serve Marco Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi. Buongiorno, benvenuto fra noi. Mauro, grazie, va bene uguale. E allora, il grande dilemma di oggi, ne parlava Oscar poco fa, è l'interpretazione di questo codice, arancione o rosso. I sindaci, per farla in soldoni molto stretta, dicono: ci arrivano migliaia, centinaia di messaggi col codice arancione, perché così l'autorità superiore e la protezione civile si sgramano dalle responsabilità, ma il codice arancione è un po' inflazionato, ci voleva un codice rosso. Lei che ne pensa? Ma penso che il discorso dei codici è un discorso generale. In Toscana c'era un codice arancione perché poi è successo che in tutta la regione l'andamento della pioggia è stato più o meno intenso, ma diciamo non oltre certi livelli. Per l'appunto abbiamo ormai un modello di piogge che si accumula in particolari punti, si è accumulato esattamente sull'area Livorno-Pisa in maniera accentuata ed è caduta una pioggia che si parla addirittura di cinquecentennale. Quindi diciamo solo su quel punto lì, ed è completamente imprevedibile. Quindi il colore arancione per la Toscana, per quel tipo di fenomeni, corretto. Su Livorno è successa una cosa imprevedibile, oltre i livelli di attenzione. Anche perché poi abbiamo avuto nel picco di 260 mm, però sì, abbiamo avuto picchi di quarti d'ora con quasi 40 mm in un quarto d'ora. Quindi, però detto tutto questo, sì, perché sia chiaro chi ci ascolta, le vittime, le distruzioni avvengono poi perché nei decenni, e anzi nel caso di Livorno è dal secolo scorso, si sono interrati lì, si è costruito, certo, sopra, certo, come a Genova. Cioè, certo, il fattore, certo, è umano. Qui non c'è la natura desolantemente arida, indifferente di leopardi. Certo, qua c'è, certo, l'uomo che deve capire, certo, da dove ritirarsi indietro. Mi scusi Oscar Giannino, non a caso abbiamo detto che il tema è la prevenzione e abbiamo investito 7 miliardi per 7 anni, che non sono legati alle singole tragedie, ma sono legati a un'analisi. A Genova stiamo facendo un'operazione di proprio per cercare di ovviare a quelle cose che lei diceva, è stata costruita, tombata e così via, stiamo facendo lavori per tentare di superare quel tema della prevenzione. Senta, io gliene ho dato atto che avete... Scusami, insomma, abbiamo un lampo fulmineo di pubblicità, c'è anche un audio sullo sfondo che sarebbe meglio togliere, lo dico al signor Mauro, torniamo subito, pochi secondi. Quattro mattino. È rieccoci in studio, io, Oscar Giannino, guest star Gio Violanti. Oscar, stavi chiedendo qualcosa? No, no, io dicevo, abbiamo dato atto stamattina, se avete sul giornale, sul Messaggero, del fatto che questa nuova cabina di regia sul rischio idrogeologico a Palazzo Chigi ha portato, insomma, a raddoppiare. Eravamo arrivati a mezzo miliardo l'anno, siamo arrivati a un miliardo l'anno. Resta il fatto, sì, circa. Ecco, ce lo dice lei stesso nelle cifre che ha fatto quest'estate, che il danno medio degli ultimi decenni annuale provocato da questi problemi è intorno a 6-7 miliardi, e pur prendendo atto che avete innalzato gli stanziamenti, siamo a un miliardo rispetto a 7. Cioè, come si può tentare di affrontare un problema così esteso in Italia? Come possono gli amministratori locali poter contare su risorse adeguate se restiamo in una proporzione di 1 a 7 in quel che spendiamo in prevenzione rispetto al danno che arriva? Ecco, questa è la mia domanda. Sì, allora, 7 miliardi sono idrogeologico, sismico e altri calamità naturali, sì. Ecco, calamità naturali. L'idrogeologico stava intorno a 400 milioni e ora sta intorno a 1 miliardo. Se ci mettiamo anche il sismico andiamo quasi a 2 miliardi, quindi rispetto a 7 miliardi che sono i danni dell'emergenza siamo intorno a 2 miliardi. Secondo me dobbiamo raddoppiare, però questa è l'evoluzione. Cosa dobbiamo fare? L'abbiamo detto, abbiamo fatto un piano per il rischio idrogeologico che riguarda 9.500 progetti per 27 miliardi. Abbiamo fatto un unico responsabile del dissesto idrogeologico, che è il presidente della regione, che è commissario di governo. Quindi non ci sono più tutte quelle perdite, non è colpa dei consorci, non è colpa delle province, non è stata la regione. Quindi il presidente della regione è il responsabile del territorio per quanto è dissesto. Abbiamo aumentato le risorse, ora si tratta di far viaggiare questi piani e i comuni, le singole realtà devono connettersi o il presidente della regione, commissario di governo, e arrivare al finanziamento. È un percorso lungo, durerà 20 anni, però questo è il percorso che abbiamo iniziato. Allora, grazie a Mauro Grassi, direttore della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico. Oscar, un tema di cui da giorni volevamo discutere, per non creare equivoci, molti hanno scritto ora, ma che ce ne frega delle diete, che ce ne frega di Berlusconi dimagrito. Io lo spiego così perché ho risposto per messaggio a un ascoltatore, uno di voi che mi ha scritto. Perché ce ne deve fregare? Perché le diete, il corpo, l'immagine sono divenute oggi il cuore della nuova politica nel tempo dell'immagine totale. Con il sorriso sulle labbra, la guerra dei dietologi è un racconto importante che ci dice qualcosa di più delle cronachette di retroscena così pret-à-porter della mattinata. Sei d'accordo? Bah, sì, nel senso che purtroppo è colpa nostra. Questa è la mia idea, cioè la colpa è nostra perché... Io per esempio ti dirò, capisco la fotografia, cosa ci vuole veicolare Berlusconi e il suo staff della comunicazione nella fotografia che la scorsa settimana ha dominato sui giornali facendo molto discutere la spesa all'autogrid. Due no? foto, perché poi ne è uscita anche un'altra spesa. Cioè l'idea è, c'è, è tornato, si occupa di voi, compra dove comprate voi, italiani comuni, eccetera eccetera. E ok, dall'altra parte noi penso che dovremmo un po' smetterla, perché a furia di fare infotainment, e io non faccio un moralista nella vita, capisco perfettamente che dal punto di vista della comunicazione politica oramai quello che hai detto tu è uno degli aspetti centrali, la politica è diventata sempre più questo. Dall'altra parte io tendo a ritrarmene, perché con tutto il rispetto dei chi di Berlusconi non me ne frega niente neanche a me, però qual è il giusto equilibrio? Perché noi viviamo in una città del consumo, in una città del consumo dell'immagine. Sì, è ovvio che la politica ci va sopra. È anche ovvio che spesso questa cosa in Italia diventa paradossalmente prevalente sulla sostanza. Ecco, questo è un po' quello che penso io. Anche domanda su Renzi. Chiedo a te questa volta. È ingrassato. L'aspetto della comunicazione fino a diventare paradossalmente prevalente sulla sostanza. Non è diventata una cifra troppo prevalente al punto di fotterlo nel suo rapporto con il suo popolo e con l'immagine generale percepita dagli italiani? Me lo pongo come problema, perché io penso un po' di sì, non so come la pensi tu. No, sono assolutamente d'accordo con te con due emendamenti. Il primo, a me che su 2 chili di Berlusconi si apra un dibattito politico e addirittura una disputa fra dietologi diverte moltissimo, no? Certo, e quindi è segreta la dieta, però c'è l'M che non retrocede, dice sono stato io, cioè, lui è andato da Scenola, Biancofiore, è un'altra versione, quindi è meraviglioso. Ma perché? Perché Il corpo del capo, meraviglioso libro uscito qualche anno fa, è come la rappresentazione. La politica si è svuotata, non ci sono più le strutture, le direzioni, i documenti, quindi il corpo racconta tutto quello che, ecco, c'è da sapere. Ma la domanda è, se noi indulgiamo, è lo stesso tipo di dialogo che abbiamo fatto qualche giorno fa, se noi indulgiamo in questo, cioè pettiniamo il cavallo per dove essere, questo è un bel dilemma. Noi non diamo una mano, ecco, io penso di sì. No, non credo, perché aiutiamo le persone a ragionare, le aiutiamo a dire, guarda, dietro quell'immagine c'è solo un'apparenza, poi devi decodificare quel messaggio. Mauro, l'abbiamo sentito, da Milano, Francesco, che ha visto Dunkerque e vuole chiederti anche qualcosa sulle tasse, prego. Buongiorno. E spoiler, sì. Perché tutti dicono, non si può spoilerare il film, ma che state dicendo? Quello è un capolavoro, se sai una scena che succede. Beh, intanto volevo dire che il film l'ho visto grazie al suggerimento di mia figlia, che ha 25 anni, quindi un giovane che spinge il padre a vedere un tema come quello della guerra. L'altra cosa che voglio dire è che ero assolutamente d'accordo con la riflessione di Giannino per quanto riguarda lo spirito degli inglesi, cioè, a parte il film bellissimo, stupendo, vero, tutto quello che c'è da dire è stato detto, ma la cosa che mi faceva pensare domenica quando l'ho visto è questo, cioè come gli inglesi abbiano avuto la capacità di trasformare una sconfitta, perché di una sconfitta dobbiamo parlare, con quella che è un'occasione per il popolo per riprendersi, per riprendere in mano un pochettino il proprio destino. E questa mi sembra una cosa molto molto forte, veramente, che distingue una nazione che esiste da altre che invece nazioni non sono. Quindi bellissimo, bellissimo il film, stupendo, assolutamente da non perdere, ma non dimentichiamo come gli inglesi siano stati capaci di trasformare una sconfitta in una, non dico una vittoria, comunque sì, una vittoria del popolo, della sua identità. Cosa volevi chiedere su invece per quanto riguarda l'Italia? Io sono uno che ha fatto la rottamazione, quindi volevo dire una cosa, che ci siamo stufati di sentire il discorso degli evasori, perché Giannino dovrebbe sapere benissimo, bravo, che evasore è uno che non paga le tasse perché non ha dichiarato quello che deve pagare. Io sono uno che dichiara quello che deve pagare, tutto quanto, visto il mio lavoro. Ma certo. Dopodiché non sempre sono nelle condizioni di poter pagare, sempre per colpa, certo, dell'eccesso di tasse, eccetera, eccetera. Quindi io non sono un evasore, io sono al massimo un debitore. Allora, ci siamo rotti le scatole, bravo, di essere chiamati evasori, bravo, hai capito? Ma è tutto qui. Ecco, e infatti, quando nel riepilogo finale delle cosiddette somme ricavate dalla lotta all'evasione si scopre che più della metà, di volta in volta, sono esattamente ruoli dovuti, cioè la cosa di cui parlava Francesco, eppure lo Stato ve li dà in pasto come suoi successi crescenti per lotta all'evasione, si celebra esattamente questo sacrilegio di cui parlava il nostro ascoltatore, e cioè equipararci, perché siamo in ritardo, eccetera, ma si è dichiarato, e magari lo Stato ci ha aggiunto anche qualcosa del suo, e noi lo abbiamo accettato perché il commercialista ci dice meglio pagare quello che ci chiedono in più piuttosto che sostenere i costi di un contenzioso nel quale per il solo diritto di sedermi al tavolo devo mettere un terzo del petitum che lo Stato mi chiede in maniera induttiva, perché questa è la simmetria del contenzioso tributario, assolutamente da Stato assoluto in cui viviamo. Ecco che lo Stato ci dice, ma come? Sì, hai ruoli, stai pagando, ma quando mi paghi io dico che tu sei un evasore. Pensateci, cari ascoltatori, perché questa è l'amara realtà che viviamo nel nostro paese. Allora, proviamo ancora un'altra svegliata a David, se squilla il telefono, vediamo. E Gio, che cosa ti sembra di questa riflessione di Oscar? Beh, Oscar è un pozzo di scienza. Ma è imitabile Giannino? È inimitabile, ma la voce. È inimitabile, ma la voce si può riprodurre. È difficile, bisogna lavorarci. Però questa sì. Com'è? È già un suono, capi? Per me è già un'onda nelle orecchie, Giannino. Perché è possibile che questa situazione debba essere così, poi salta, poi cambia il tono. Vedi, ma è un grande comunicatore. È un grandissimo comunicatore. E poi la memoria di Giannino, cioè, mi ha sempre stupito come faccia Giannino a ricordarsi tutti questi dati. 6 milioni di euro che noi recuperiamo attraverso il 6%, l'ha scritto Repubblica la settimana scorsa, ma oggi ne è nella stessa pagina. Vedi, ora devi imitare. Perché la mia idea sono geloso. La mia idea è che i giornalisti servono giovano un po' più a questo che a pensare chi è di Berlusconi. Ma magari mi sbaglio io, magari mi sbaglio io. Allora, Giannino, perfetto, complimenti. Adesso non c'è bisogno che lo dica io, ma Giannino è un grande comunicatore, c'ha questa capacità attraverso le variazioni di tono di attrarre anche maggiormente l'attenzione, oltre ai contenuti che sono sempre interessanti. Complimenti, no, però Giannino. Se non imiti anche me qui non metterai più piede. Sono offeso e quindi ci sentiamo domani 24 mattino, ciao!